21:57, ritorniamo qui su Salute e Felicità. Oh yeah. E abbiamo perso un po' i tempi di questa trasmissione, per cui vi diamo due notizie flash molto, anzi una notizia flash che leggevamo così su Indie Media. Yeah, diciamo che sono due notizie che però sono un contenuto, no? Una cosa sola. Purtroppo ci è arrivata la notizia che Indie Media Atene è stata oscurata, e come appunto su italy.indymedia.org potete leggere, siamo alle solite, in quanto il governo greco, a quanto dice la redazione di Indie Media, è giunto al secondo stadio del piano per il rientro economico finanziario. Se il primo era prostrarsi supinamente davanti al mostro capitalismo, distruggendo così in un solo mandato innumerevoli di diritti che la popolazione aveva acquisito con anni di lotte, il secondo, chiaramente, è quello di reprimere i contestatori e di oscurare i loro mezzi di informazione. Attaccare gli strumenti di informazione attraverso il mezzo televisivo e i giornali di regime per criminalizzare il dissenso, per creare del vuoto intorno alle voci e ai corpi fuori dal coro, per affievolire le resistenze e tagliare i ponti. Succede sempre così. Ogni volta che le piazze esprimono delle posizioni forti, ogni volta che uomini e donne alzano la testa, ogni volta che l'informazione indipendente diventa fondamentale, attaccare gli strumenti di partecipazione e condivisione attraverso leggi liberticide, che siano europee, mondiali o nazionali, poco importa. E siccome, come ci ricordano da Indie Media, la memoria è un ingranaggio collettivo, vi ricordiamo che già nel 2001 a Genova c'era stata un'irruzione al Media Center, nel 2002 Italy Indie Media si ritrova sequestrati PC e server, nel 2004 vengono sequestrati i server di Indie Media ancora, un crackdown di autistici nel 2005, il Papa contro Indie Media Italia di nuovo nel 2005, nel 2009 sequestrato un server, nel 2010 sequestrato un server di autistici in Norvegia e nel 2012 viene sequestrato preventivamente il sito d'inchiesta Vaillant.info, che insomma un sito che raccoglie tutte quante le notizie relative a quella che è stata la strage del Vaillant, alla quale non si vorrebbe dare chiaramente particolare voce, e quindi viene è stato oscurato appunto questo sito, dove all'interno venivano raccolte varie testimonianze sia audio che video che foto relativa appunto a quella che è stata la strage del Vaillant. E proprio da questo, diciamo, da questa questione di Indie Media ci volevamo ricollegare, e dal 2008 di dal 2001 del G8 di Genova ci volevamo ricollegare a quella che è un'altra notizia che un po' ci rasserena, come dire, ci fa felici da una parte su differenti livelli, quello cinematografico e quello politico, dall'altro ci fa ricordare che fino a quando l'esperienza di Genova sarà un premio, no? Fino a quando quello che è successo a Genova sarà un premio ai festival del cinema internazionali, voglio dire, vuol dire che non siamo andati particolarmente avanti. In ogni caso diciamo che si è concluso il festival di Berlino. E perché questa cosa di Genova? Perché il premio del pubblico è andato ad un film che si chiama Diaz, Non pulire questo sangue, che è un film che racconta un po' quello che è successo alla scuola Diaz, racconta un po' quella che è la repressione che il nostro paese ha fatto nei confronti di un movimento come quello che era il movimento che era partito da Seattle nel 99, e da quella repressione, come dire, abbiamo un po' raccolto i cocci del fare politica in questo paese. Stiamo ancora tutti quanti, no? Sappiamo tutti quello che è successo alla Diaz, però è sempre buono, come dire, ricordare, perché l'oblio è il nostro primo nemico per quanto ci riguarda, per cui quando uscirà in Italia questo film andiamo a vedere, non sappiamo intanto com'è, però andiamo a vederlo, perché rivedere un film su Genova soprattutto è rivedere quello che è successo, proprio per non dimenticare, per, come anche diceva Frodo prima, per ricordare che in questo paese non solo sono stati sospesi i diritti civili di persone non solo italiane ma anche degli altri paesi, ma soprattutto le persone che hanno praticato quello schifo sono stati premiati, per cui non ce lo scordiamo. Un'altra notizia è che l'Orso d'Oro in realtà l'hanno vinto i fratelli italiani, la loro foto è meravigliosa con l'Orso d'Oro in mano, che hanno fatto un film che si chiama Cesare deve morire, ed è un film che è stato girato nel carcere di De Bibbia con i detenuti del braccio carcere per sempre, perdonatemi ma non mi ricordo bene come si chiama il braccio, per cui anche su questa cosa magari, cioè, ricordare che prima di loro dicevano una cosa molto bella nella loro intervista: anche se sono delle persone che sono rinchiuse in carcere per dei crimini che hanno commesso, non bisogna mai dimenticarsi che sono delle persone. E allora su questo vorrei aggiungere un'altra cosa, lanciando a un approfondimento che avremo nella prossima trasmissione di Salute e Felicità, ovvero un approfondimento che a noi ci sta molto a cuore, un po' come la questione LGBT che rimbalza dalle musiche alle notizie, agli aggiornamenti che sono in rete, ma anche e soprattutto nelle nostre vite, ovvero quello che riguarda il tema della salute mentale. E tutto yeah. quello che gira intorno alla salute mentale, diritti e varie. Diciamo che nelle ultime due settimane, se non sbaglio, è stata proposta o è stata fatta una nuova legge sugli OPG. E che cosa sono gli OPG? Che vuol dire? Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Oh yeah. E quindi settimana prossima avremo modo di approfondire questo argomento. Assolutamente, cercheremo di parlare un po' meglio di che cosa sono gli OPG, di che cosa è stata la 180 e di chi è stato Basaglia, e da là come insomma un po' questo paese, sull'unico tema, forse su una delle poche cose, è stato un po' avanguardistico rispetto a tutta l'Europa, ma nonostante abbiamo delle leggi che ci dovrebbero tutelare e garantire, ovviamente poi lo stato sociale, lo stato di sopravvivenza di molti cittadini e cittadine è a uno stato sotto zero, come dire. E infatti il welfare in questo paese non viene fatto altro che sfancularlo proprio. E OPG e CIE sicuramente rappresentano lo stato di degrado massimo e di non rispetto delle persone, lo stato appunto in cui si trovano molte molte detenute, molte persone che sono rinchiuse negli OPG. Ok, e allora dopo questo breve... Ricordiamo, scusate, che nel carcere di Re Bibbia c'è anche, come dire, la sezione per le trans, quindi chiaramente, quindi... Figuriamoci poi, vabbè, poi in questo paese vabbè, abbiamo un CIE, no? Abbiamo centinaia di questioni. Tra virgolette, come dicevo prima, per fortuna al Festival di Berlino c'è ancora qualcuno che si mette a fare anche film relativamente a questioni che sono particolarmente pressanti in Italia. Per fortuna ancora qualcuno con un po' di competenze e di capacità fa vedere al resto del mondo lo stato in cui imperversa questo paese. Questo mi ricordavano in chat su Skype che il braccio si chiama Fine Pena Mai. Ah, Fine Pena Mai, ecco, che più chiaro non si può, insomma. E questa gente ha vinto recitando in un film Leone d'Oro di Berlino, quindi insomma chiaramente c'è tutta una critica sul carcere come strumento, no? Come dire, che bisognerebbe fare. E allora dai, la prossima settimana ci impegneremo anche con qualche ascoltatrice che speriamo ormai sia all'ascolto, dateci segno, ecco. Quindi Sandrona la Chiattona, sei online, sappi che per domenica prossima sarai cooptata insieme a tutti e tutte coloro che vogliono contribuire a questo nuovo tipo di approfondimenti sulla salute mentale. E proprio lasciandovi sulla salute mentale, vi invito a visitare questo sito www.forumsalutementale.it, dove intanto vi potete iniziare a leggere qualche cosa e se vi vengono idee o riflessioni sono ben accolte qui a Salute e Felicità. Ma paravero parapà, ci ascoltiamo i Joy Division e il brano si chiama Love Will Tear Us Apart. Buon ascolto a tutte e a tutti. 2208 salute e felicità. E domenica prossima, oltre all'approfondimento sulla salute mentale, c'è chi farà l'approfondimento sulla salute anale. Pina Jutador. E abbiamo una candidata speaker per salute e felicità, che vuole fare un po' la litizietto della situazione, che vuole fare la gavetta, vuole fare la VJ per MTV e dice che sa fare anche la ruota. Oddio, ma sa fare tutto questa persona. È fantastica. Pina, sappi che prima o poi salute e felicità, oltre ad essere una web radio audio, sarà anche una web chat video radio. Sì, ma che è questa? Sì, cioè ormai tutte le radio, oltre che a sentirsi, si vedranno. E quindi anche sì, come quelli di RTL. Sì, fantastico. E quindi mentre noi se ci vedono in pigiama, però mi sa che non è un grande spettacolo. Sì, sì, tra l'altro stasera abbiamo tutti una mise fantastica. Io, no vabbè, io non posso parlare, vengo da una festa di bambini e sono pittata in faccia. E quindi continuiamo a ringraziare chi è che sta con noi in chat, sui nostri vari network, tra la chat di transizionedifase.org, il nostro Twitter, il nostro Facebook, Skype, tutta qua merda lì proprietaria, a parte la nostra chat che ci difendiamo con orgoglio, insomma. E con 10 minuti di ritardo, eccola, è arrivata. È arrivata, signore e signori, e che dire? Che dire? La mannamo, niente. La mannamo. Buon ascolto. La mitica. La cazzata della settimana. Ta-ta-ta, salute e felicità. Tina Turner. E allora siamo tornati in voce perché è arrivato il momento della cazzata della settimana, signore e signori. Quindi prego la regia di mandare scusate, di mandare la cazzata della settimana. Con 500 euro al mese. Dalle con questa storia di 500 euro al mese. Non ho mai guadagnato 500 euro al mese. Perché da quando ho iniziato a studiare mi sono fatto un mazzo tanto e ho guadagnato di più per merito. Chi guadagna con 500 euro al mese è uno sfigato per varie ragioni. Per varie ragioni. E per fortuna sono pochi, pochissimi in Italia che hanno questi 500 euro al mese. Lo sa? Mi dica quanti sono che hanno 500 euro al mese? Che guadagnano così? Quanti sono? Io in Italia. Non lo so, però. Poche centinaia di migliaia! Anche perché se fosse vero avremmo i morti di fame davanti alle, per le strade. E non ce li abbiamo. Esca in qualunque città e trovi un morto di fame, se ci riesce, italiano. Non ci riesce. Comunque sta guadagno è riuscito a farmi perdere un telespettatore perché ha spento. Parlano bene, ma quando servono, dove erano, dice Renato. Ebbene sì, signora. Straguadagno, vaffanculo! L'ha detto, signore e signori, l'ha detto. Allora facciamo così. Io domani mattina vado a casa di una mia utente. Ma come si fa? Che guadagna 500 euro al mese di pensione sociale, ecco. E gli dico: ha detto straguadagno, che sei una sfigata. C'hai 80 anni, c'hai la pensione sociale, non te puoi pagare l'affitto e ti aiutano i figli tuoi che ne guadagnano 800, però sei una sfigata. No, ma a me quello mi fa del culo, no? È che quel pezzo di merda di Michel Martone un po' di tempo fa ha detto: chi si laurea dopo 28 anni è uno sfigato. Allora, li mortacci tua, primo. Oggi, no, ieri, quando cazzo è stato, sto straguadagno dice: se guadagnate 500 euro al mese siete dei sfigati. Ma li mortacci vostri doppio, nel senso che... No, ma dico io, scusate. Ma come ti viene in mente? Cioè, no, perché... Poi dice anche quest'altra cosa assurda. Che è un inno alla Grecia, tra l'altro. Assolutamente. Se ci fossero persone che guadagnano solo 500 euro al mese, vi sfido anzi a trovare una persona che guadagna solo 500 euro, sarebbero per le strade a morire di fame. Ma allora, io mi sono laureata dopo i 28 anni e guadagno 500 euro al mese dopo 12 anni che lavoro e non c'ho un contributo versato, no? Però sei una sfigata, dai, c'ha ragione. No, ma che poi voglio dire, cioè, ma straguadagno, sei mai sceso dall'auto blu che te pagamo noi? Perché guarda che la gente per strada che muore di fame, ci sta, ma ci sta da anni. Ci sta, ma il problema è che ce n'è di meno, perché quella famosa frase che ci dicevano i nostri nonni, quando non riusciremo più a pagare il pane, allora veramente andremo nelle piazze. Ma finché il pane anche lo pagheremo a rate. Come dire? Nel senso, è un debito della rimessa del debito che rimette debito, che produce euro inconsistenti, non concreti, non reali, e che ci permette anche a chi lavora a 400 euro al mese di comprarsi un monitor LCD da 64 pollici, perché quello ti fa sentire che non sei uno sfigato veramente. E vai col debito. Allora. E vai con i debiti proprio. No, ma poi davvero, cioè... Boh, vi sfido a vedere una persona che guadagna 500 euro, ma io te sfido a vederne una che fa meno di 4 lavori pur di arrivare a 500 euro. Cioè, e fa 500 euro al mese, devi fare, cioè, un monte ore di lavoro che questi qua non c'hanno proprio idea. Mi pare abbastanza evidente. Perché beh, sennò... un gettone presenza al Parlamento mi pare che siano sugli 800 euro. Capito, per un'ora, no? Cioè, per e la sera, se sei presente, ti diamo 800 euro. E quindi che stiamo a parlare? Straguadagno, mica hai devi vinto pensare. Tu proprio. A me comunque quello che continua a stupirmi è che, nonostante tutto ciò, siamo fermi. Yeah. Immobili. Continuiamo a essere fermi, nonostante ci sia una legge, una proposta di legge per togliere l'aggravamento sui stupri di gruppo. Aggravante sui stupri di gruppo. E pochi giorni fa lo stupro dell'Aquila, come dire, è una manifestazione surreale. Ma ne parleremo di quello fra che poco, ne parleremo fra poco. Gli attacchi all'articolo 18, l'omofobia, tutto che continua a calarci a palate di merda sopra le nostre teste, ma ci compriamo il monitor LCD 32 pollici a rate. La benzina costa 2 euro, ma tutti ancora stanno con la macchina in giro. Se dici qualcosa ti dicono no, vabbè, perché ci avete sempre da ridì voi giovani, ci avete sempre da ridì. No. Ah, vecchi. Io ci avrei voglia di vivere, non ci avrei voglia di ridì. Mortacci loro, guarda. Vabbè, Stracquadagno, ti sei meritato il nostro Sampli The Best, eccolo qua. L'hai vinto proprio tu, Stracquadagno. Che gli dovevamo dire a sti politici? Niente, io c'ho di solo parolacce e bestemmie, quindi sto zitta. Molotov. Comunque il commento di uno su YouTube era: Stracquadagno che ti bucassero la testa con... No, no. Cioè, attenzione, attenzione, attenzione. Ma anche perché poi se gli bucano la testa esce tanta di quella merda che chi la pulisce, riga? Sai che puzza? Chiamano quindi qualche basta. Tipa tipo rumena a pulire a 2,50 euro l'ora. Lasciamo per... Non gli ha bucato questa testa, riga. Giovanardi, Stracquadagno, tutti, tutti nella stessa cesta. Impiccagione, no, a sassaiola. La sassaiola che ti fa sfogare di più. E dai, Piazzale Loreto vince. E allora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Sono le 22:20 e ancora ci abbiamo da dirvi la nostra ricetta della settimana, che trovate sempre su Art, Food and Other Gay Things. E quindi vi invogliamo e incoraggiamo a prendere carta e penna, perché a breve leggeremo la ricetta della settimana. E in più abbiamo anche il nostro simpatico oroscopo. E soprattutto salutiamo la prof e Sandrona la ghiattona, suggiunte, dai, suggiunte, suggiunte, Aurora. Or suggiunte. E quindi, Aurora in cat. Grazie Stracquadagno che ci dai qualcosa da dire durante il Sampli The Best. È proprio perché siamo una trasmissione musicale, adesso per tutte e tutti, una canzone che ci ha fatto ballare alle feste, alle serate, da sole, ci ha fatto piangere perché colonna sonora di un film dall'omonimo titolo, e vi lascio con una canzone molto bella dei Cure, e questa è Boys Don't Cry. Buon ascolto a tutte e tutti. I'm E allora ci dicono che è tornata online India Tene, pare che gli avessero tolto la corrente, sti disgraziati. Si chiama Indimedia Tene, non India Tene, oh, però... scusate, l'ho abbreviata. Va bene, gli avevano tolto la corrente, vabbè. Qual è il miglior modo per togliere la possibilità a una radio di trasmettere o a un server di trasmettere? Ti tolgo la corrente. Mamma Ops, mia. È stato un errore. Sì, per manutenzione, si dice così. Sì, mo si dice così. E che dire, abbiamo ascoltato i Cure, che è il loro esordio di sarà 1976 in piena esplosione New Wave, anche se il loro successo lo raggiungono fra la metà e la fine degli anni 80, soprattutto con due singoli che sono Close to Me e Lullaby, che anche se noi questa sera abbiamo messo come una canzone un po' più inflazionata dei Cure che ci avrebbe fatto ballare. Che dire di questi Cure, che hanno venduto circa 28 milioni di dischi. 28 milioni. Taci. Che anche a 1000 lire. Prova a parlare al microfono. Ho le mani impegnate. E te a fare il sifonello e dai un po'. Dicevamo 28 milioni di canne, no, dei dischi. 28 milioni di dischi, Loro sono considerati, come dire, appartenenti al genere gothic rock e dark wave, perché hanno un'immagine triste e decadente. Ma a me mi stanno così simpatici sti Cure, che devo dire. Grande Rob. Anche se hanno raggiunto, come dire, la popolarità più in là, più in là. Chiaro. Più in là. È uscito anche a è uscito anche un film da poco, dico bene, no? Che si chiama appunto... Quale film? Ma come quale film? Quello su Robert Smith, oh. Vabbè, va, vo, dimo non dopo. Lo so, non lo so. Amo il capito. Film su Robert 22, Smith. 20... No, su Robert Smith, quello con Sean Penn che... Ma no! Ma non è... No, scusate, perché qua il conduttore fa l'esperto cinematografo qua, ma non sa niente. In realtà, vabbè, This Must Be the Place non è un film sui Cure. Vabbè, è Sean Penn che è uguale per a fare, Robert Smith. Che per lo ha anche detto, che per, come dire, per come fare... L'ha detto Sean Penn, io magari. Ha detto che per fare il musicista, yeah, in This Must Be the Place, si è ispirato al cantante dei Cure. Vabbè, bando alle ciance. Si è ispirato, è uguale. Mi ha detto ho copiato il cantante dei Cure. Si fate è ispirato una cantante come la conduttrice qua, che ti vengono idee più geniali. Ricordo che è illegale in questo paese. No, cannetta de Prezzemolo, Timo. Qualcuno usava il Timo per profumare il tabacco? Io non ti Timo. Che schifo. Ah, bene, questa sera abbiamo una defiance sull'oroscopo. Anna Rota sta male, quindi... Prima dell'oroscopo però c'è una sfida per salute e felicità. Ovvero, ma la state a passare la madrina del New Wave? Perché lei è una sola, è americana, e se non la passiamo spegne. Quindi attenzione, ve la metto così, io non ho possibilità di ragionamento nella mia testa. È Siuxis, chiaro che la passavo. No? La sappiamo la risposta, è Siuxis. È Siuxis, scusami. Siuxis, il brano dopo, però subito dopo l'oroscopo. Se non è questo, noi te sbroccamo. Te puoi pure chiude, ma noi te sbroccamo. Scusa, invece di fare, come dire, la sabutella musicale... Dacci una mano. Chiaro, oppure puoi scrivere a info@transizionedifase.org e suggerire. Non vale così, vi arrivano i suggerimenti. Lei è inglese. Ma come? Ma non era americana? Ma infatti... Miei cari, aggiunge. No, scusa, hai scritto... Siuxi è inglese? No, ma di che? Ma che Siuxi è inglese? No, lei ha scritto americana, non vale perché lei è inglese, miei cari. Vabbè, stai vabbè, fuori. Fai pace col cervello, o è americana sì, o inglese. Allora, signore e signori, un anglo americano. Sigla del nostro oroscopo Air Kelly Watch the Stars. Buon ascolto a tutte e a tutti. C'avemo Siuxi, a bella! A bella, la trasmissione l'ho preparata io, musicalmente parlando. E dopo Serena, oh. Arriva l'oroscopo. Diteci i vostri segni sulla chat di Salute e Felicità. Volete ascoltare il vostro oroscopo? Scrivete il vostro segno sulla chat di Salute e Felicità. Si entra da www.transizionedipazio.org. Qualcosa va male durante la settimana? Se pensate di essere degli sfigati o delle sfigate, guardate le stelle e pensate a Roma che brucia. E non mettetevi contro Marte, per piacere. Mai. E il vino è finito. Ma ce n'avevamo altro. Allora piglialo. Seconda, non fatevi la ceretta. Ci hanno dato un vino de merda. Aiuto. Ma io direi è petrolio più che vino. Vabbè, ho capito, la vineria è aperta comunque, eh. Comunque, partono i compiti per tutti, signore e signori, dico bene? Ti stancano le notizie deprimenti che arrivano dai mezzi di informazione? Puoi trovare un antidoto su transizionedifase.org. Salute e felicità tutte le domeniche dalle ore 21. Ma come mi viene? Mi schioppa il cuore. Comunque, puoi trovare un antidoto su Pronoia Resources. Ma che cazzo ci famo con Pronoia? Ho capito, il contrario di paranoia. Dai, prof, che rientrate in chat dopo qualche problema. Ma se sa che i ragazzini gli staccano sempre il computer, la corrente, come a Indie Media Italia. No, Sante De Santis, no. È la Indie Media Grecia, non Indie Media Italia. Comunque. Oh, merda, è vero? O India Italia. Era Indie Grecia. Non dite India Italia, che mo' è un periodaccio, perché c'è stato un casino dei Marines, dei marinai hanno ammazzato della gente sulla barca. Vabbè, mamma mia, i militari. In ogni caso è arrivato il momento della nostra, del nostro oroscopo, eccolo qua. E abbiamo la prima richiesta. Nonostante la simpatia di chi l'ha richiesto. Il segno del cancro. Chi è uscito dalla porta ha già fatto la parte più difficile del viaggio. Basta che non ti viene da tornare indietro. Diceva un proverbio olandese. Ma come basta che... vabbè. Anche lo scrittore latino... l'ha interpretato l'oroscopo. Ah, ho capito. E soprattutto detto dalla voce preselezionata del PC che avete selezionato precedentemente, con enfasi. Anche lo scrittore latino Marco Terenzio Varrone ha espresso un concetto simile. Mi sembra Mario Monti. Bisogna pagare questo debito. Chiaramente. E lo pagheranno tutti. Tutti chi? Tutti tranne me. Tutti tranne me. Comunque, questo Marco Terenzio Varrone ha espresso un concetto simile. La parte più lunga del viaggio è varcare la porta. Fratello e sorella, un po' ecumenico. Spero che queste parole ti serviranno di incoraggiamento, cancerino. Cancellino non era quello da lavagna, comunque. Bello. Quando facevi a botte i cancellini e tornavi a casa che starnutivi tutto il giorno. Caro cancerino, devi partire per una ricerca che, se tutto andrà bene, ti permetterà di esplorare a tuo piacimento e di fare scoperte impreviste. Se sarai tempestivo, darai il tono giusto alla tua avventura. E non mandarla. Cancerino! E allora, ci siamo. Passiamo al segno dei pesci. Pescia tu che pescio io. Oddio mio. Un cartello che ho visto davanti all'Apostolic Bible Church di Bathurst, New Brunswick, invitava i fedeli a riflettere su questo enigma. Scusate, devo schioppo delle vostre orecchie. Perché Noè non ha ucciso le... Perché Noè non ha ucciso le zanzare? Dopotutto, se lui non avesse aiutato quei fastidiosi insetti a sopravvivere al diluvio, oggi non ci tormenterebbero, Dio buono! Ti prego di applicare questo principio alla tua situazione, peschi. Cioè, compra una mazza zanzare. O peschi, capisci che insetti servono per ciclo di vita di mondo. Certo. Insetti sono quelli che ci fanno sopravvivere di cose di cibo che noi mangiamo, molto importanti a ciclo sistema. Buscofen. Pesciolini, mentre ti avviai. Oddio mio. Pescioline e pesciolini, mentre vi avvii. Come, scusi? Vi avviate. Ah, bene. A entrare nei vostri nuovi mondi, lasciate alle spalle tutti gli elementi irritanti. Wow. Pesciolini, a usare DDT. Mi raccomando, sempre ecologico e fatto con prodotti naturali per madre terra natura. Grazie. Da casa di Chiattona e Mimì, io Mimì a maggio andiamo a sentire il concerto Metallica. Io so che le stelle ci accompagneranno in questo viaggio. Sicuramente anche i Metallica voteranno per il candidato ultraconservatore degli Stati Uniti, come abbiamo detto prima. Andiamo sul segno dei di cosa? Della Virgin. Della Virgin, collego io la Virgin, dove sta? Eccolo qua. Leggimela bene, per la favore, approfondimiscela. Certo, mange. Ringraziando l'amico mio brasileiro che ci sta ascoltando sempre, Gustavinha. Gustavinha! Lo leggiamo in brasileiro. Virgin. Manco troppo. Amoso Doc, ricordatela. Sì, pure io. Il Regno Unito ha conferito la medaglia al valore a 32 pigioni viaggiatori per l'ingommiabile servizio svolto durante le due guerre mondiali. Probabilmente quei volagili avrebbero preferito essere premiati con qualche seme di girasole o noggioline. Che te ridi, cara? Dammi una crocchetta, Puppo. Tienilo presente quando vorrai premiare una persona o un animale che ha fatto molto per te, Bergen. Regalagli qualcosa che graderà veramente, non un'insignificante medaglia d'oro o un elogio strage. Elogio a strage. È arrivato il momento di ricompensare chi ti ha aiutato con un'apprezzabile azione concreta, Vergine. Quindi mi raccomando, non ringraziare con semano scelline, non ringraziare con premi banali, Vergine. Regalagli qualcosa che gradimente gradirà veramente. Ora 22:40 andiamo avanti con prossimo segno gemelli. Gemal, questo rileggiamo formula seria. Nel Re Leone due dei personaggi principali sono un suricato di nome Timon e un facocero di nome Pumba. Spesso si comportano in modo erotico e eroico e aiutano il protagonista Simba a raggiungere il rango di re che gli spetta. Gli attori americani che hanno dato voce a Timon Pumba e Nathan Lane e Ernie Sabella si erano presentati all'audizione per un ruolo minore, quello delle Iene. Avevano mirato troppo in basso. Per fortuna il fato ha tramato per dargli più di quello che chiedevano. Non cominciamo come loro, gemelli. A da punta in alto! Mira in alto fin dall'inizio. Non ti accontentare di una parte di un secondo piano, ma cerca di essere al centro di azione. Quindi diventerò la conduttrice. Dai, gemelli, dai! E allora, saluto e felicità arriva al consegno per ora. Che è l'Acquiaro. La che? L'Acquiaro. Che finisce oggi questo segno, quindi se avete fortuna finirà. Se non l'avevate comparirà. A parte tutto, tutte le Jeep hanno 7 fessure sulla griglia anteriore. Perché? Secondo chi le fabbrica, simboleggiano il fatto che sono state le prime macchine a essere usate in tutti e 7 i continenti. Ma senti qua, ma che cosa ci dicono? Stiamo gracchiando un sacchio, Alfredio. Siamo gracchianghio. Prendi ispirazione per questa qua. Prendi ispirazione da tutto questo, Acquario. Il tuo compito consiste nel trovare qualcosa di cui sei orgogliosa o orgoglioso e trasformarla in un emblema, un marchio o un talismano. Non so, riesci a fare la pupù? Oh, sì, sa, paparapapà. Riesci a fare la pupù solo una volta a settimana? Fai un emblema sulla porta di casa, così tutti sapranno ciò di cui tu vai più orgoglioso. Rosso fa veramente schifo. Altrimenti, Acquario, se non trovi de meglio, puoi disegnarlo sui finestrini delle auto coperti di polvere. scriverlo sulle pareti dei bagni o aggiungerlo al tuo profilo Facebook o dircelo in chat su salute e felicità www.transizionedifase.org tutte le domeniche dalle ore 21. Quello che conta, Acquario, è che tu renda pubblico un tuo successo importante, anche se in modo modesto o misterioso. E allora, ritorniamo a noi, 22:44, continua Zanzare, non avevo sentito Ernest, ad aggiornare sul podcast di Salute e Felicità che troverai da dopodomani su salutefelicita.noblogs.org. E già che ci siamo a dirla così da appuntamenti eccetera eccetera, sono le 22:45, quindi vi informiamo che venerdì 24 febbraio c'è il venerdì radioattivo. Che cos'è il venerdì radioattivo? È la cena di autofinanziamento che Transizione di Fase fa tutti gli ultimi venerdì del mese a Strike, che è in via Partini 21 a Roma. E quindi se vi va di autofinanziare, di sottoscrivere, diciamo, e autofinanziare questa radio, vi prego, così compriamo un microfono nuovo, vi prego. Mi è stato già sottratto. Ebbene sì, nel frattempo durante l'oroscopo uno dei nostri microfoni è schioppati come al solito. Ma comunque, venerdì 24 a Strike, quindi c'è il venerdì radioattivo, una cena di autofinanziamento e poi si resta lì a bere al pub di Strike, quello che vi pare, insomma, a prezzi modici. Vi invitiamo tutti e tutte tanto a sottoscrivere, ma soprattutto a venire, a incontrarci, a vederci, perché se sa, la web radio è sempre un po' strana da beccare, cioè non è che la becchi per strada, né c'ha una sede sostanzialmente, quindi... Come ci becchino per strada, oh. Sei no, tu certo. Il topo che sta rinchiuso tutto il giorno. Vabbè, allora siamo esseri sociali. Ho capito, Nini, però non è che tutte quelle che ci stanno in chat mo ci conoscono tutti quanti i giorni. Quindi venerdì 24, venerdì radioattivo a Strike, dalle ore 21 cena, e abbiamo anche il menù che adesso con molta attenzione vi verrà a letto. Primi, Mafalda alle cime di rapa o ai broccoletti, dipende dalla verdura di stagione, immagino. Ole! Sono entrambi di stagione. Riso, gorgonzola e spinaci. Secondi, spezzatino bollito alla picchia po, carciofi alla romana, contorno patate al forno e i dolci a sorpresa. Perché saranno direttamente autoprodotti da Salute e Felicità, quindi saranno dolci, saluti, dolci. Salutari e felicitari. Felici. O felicitisti. Magari. Felicitisti, e quindi vi invitiamo e ve lo ricordiamo venerdì 24 a venire a Strike per beccarci un po' la postazione. Noi di solito facciamo una postazione open source, quindi lì noi trasmettiamo da lì venerdì sera. Quindi chiunque vuole può portare sia contributi audio, video, musicali, sharare, perché abbiamo la nostra postazione open, quindi facciamo book sharing e quant'altro. E anche se vuole intervenire in radio lo può fare automaticamente. Vi ricordiamo che chiaramente sempre venerdì ci sta Tortuga, tortuga.noblogs.org, il suo blog, quindi dalle 20 alle 21 chiaramente c'è un momento di pausa nel nostro streaming, ma per il resto ci potete ascoltare direttamente da Strike. E allora 22:47, Salute e Felicità non finisce, ma si propaga e propugna sino alle 23:30. E cara Clo, la madrina della New Wave ce l'abbiamo? No, ce l'avevamo la scorsa settimana, Nini. Ah, Nini. Quindi te la sei persa, mi spiace. L'avevamo passata con uno dei suoi pezzi più famosi. Ah, è vero, avevo dimenticato, Orsu. E soprattutto, non so se lo sai, visto che sei così brava a suggerirci chi è questa madrina, che quel pezzo famoso l'aveva scritto insieme a Springsteen. Ora valla a cercare tu, tesoro. E non sta marosica, bella mia. Ah, bella. E quindi è arrivato il momento di farvi ascoltare un po' lei, un'artista davvero eclettica che ha popolato gli anni 80 e non sono. Lei si chiama Siouxsie. Ah, avevamo una richiesta per Siouxsie. Che richiesta per Siouxsie? Ci chiedevano nessuna di quelle che stai passando. E quale ci chiedevano? Problemi di connessione. Sì? Ci chiedevano Spellbound o Mirage. No, Mirage no. Va bene, vediamo un poco se passiamo qualche canzone di Siouxsie più tardi. Non lo so. Intanto Siouxsie and the Banshees. E questo brano si chiama Christine. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Cristi, da sentire sta canzone, Cristi. Eccola. E abbiamo ascoltato adesso gli Human League. E il loro nome deriva da un gioco da tavola che si chiamava Star Force Alpha Centauri, che era uno dei primi wargame di fantascienza del periodo. Che dire di questi Human League, che è un gruppo che è nato in Gran Bretagna nel 77, e soprattutto i due protagonisti, come dire, coloro che suonavano in questo gruppo erano componenti, grazie, non mi veniva il termine. I due componenti del gruppo erano due programmatori di computer uniti dall'amore per due stili musicali differenti tra loro: la musica pop come il glam rock e lo stile Motown e la musica elettronica dell'avanguardia. Che dire di questi Human League? Che il loro brano sostanzialmente ha raggiunto anche molte classifiche, ha raggiunto il successo in molte classifiche, ed è stato un brano di successo anche perché è stato prodotto dalla Virgin, è stato molto sponsorizzato da Virgin, per cui questo. Chiaro. E invece riguardo a quella Siuxis, abbiamo qualche informazione? Che Claudia l'ha vista dal vivo con i Creature. E sti cazzi. Ho capito, però sta Claudia è un po' simpatica. Ti vediamo domenica prossima a venire a fare la trasmissione con noi, cara Clo. Cara Clo, oppure ad ascoltarla tutti i martedì. Al MFLA, martedì femminista lesbica autogestito su Onda Rossa. Bravo Frodo, sei preparato. Grazie. Stavamo dicendo della tipa che riesce a pronunciare solo tu. Io ho una difficoltà con questa X. Siuxi and the Banshees. Pare che siano stati il gruppo inglese più famoso e più importante del post-punk o new wave, come meglio ci piace dire. Oh, yeah. E abbiano influenzato gruppi come U2, i Massive Attack e i Garbage. A voglia. Mazza, pare che sono bravi questi. Eh sì, infatti avevamo messa la canzone. Non lo so, questa Christine era un po' così. Vabbè, ma lei Siuxi, poi ha fatto anche alcuni album, diciamo, da sola, ma è un'artista eclettica. E ha lanciato anche Robert Smith. Chiaramente. E questa te l'hanno appena suggerita. Si vede così dalla a caso te l'hanno suggerita. Però che dire su questa New Wave? Questa New Wave... alle radio non gli piaceva molto questa New Wave. No? Tutti i commentatori dell'epoca dicevano che era un genere musicale che non avrebbe mai raggiunto la popolarità. Cosa che fa invece grazie al programma a cui vuole tanto partecipare la Pina, che è MTV, e che grazie ai videoclip, cioè, tutti gli adolescenti si appassionarono a questo genere musicale. E pare che in un sondaggio la maggior parte dei quattordicenni disse che era il loro genere musicale preferito, cosa che, come dire, spalancò la porta all'uso di sintetizzatori e altre cose nella musica. E a riverberi sul rullante, come diceva Gigi. A riverberi sul rullante. E dopo gli Human League vi mettiamo un pezzo che penso sapete tutti di chi è, ma proprio tutti. E se non lo sapete potete anche chiudere. E io li ho visti allo Stadio Olimpico. Ciao Clo. E eravamo insieme. Ciao Clo. Ma è quella volta che qualcuno ha vomitato una testa di quella davanti? No. Ah, meno male. Quelli erano gli After Hours. Ah no, va bene. Allo stadio del tennis. Ah, ok. La Clo c'era. Ecco, gruppo di tutt'altra caratura. Vi invitiamo in chat su transizionedifase.org a dirci chi li riconosce. Il primo che li riconosce vince un menù intero. No, che menù no, è troppo semplice. Vabbè, ho capito, vediamo un attimo. Secondo me è un menù intero più o meno, diciamo. No, senza la torta. Menù, un primo, un secondo... E la torta, dai, vabbè, la torta. I primi che indovinano, ok, il dito più veloce della chat, solo dall'intro si riconosce immediatamente. Ecco a voi. Facciamo una prova. Metti a manetta il volume dal mixer, spingi play e poi spingi stop. Ebbene, era più che sufficiente. Vediamo. Ancora nessuno batte. Nessuno vince. Merda che siete, ragazzi. Mazza, vinceremo noi. Senza sì, ma dovete niente. Dirci il. A rifallo. Eccola, Sandra la chiattona. No. Sì, ma Depeche scritto con la S. No. no, no, non va bene Depeche scritto così. Tommy. E allora a Sandrona daremo... Ma ancora non abbiamo il titolo della canzone. Ai ai ai, Pedro. Ai, fermo, ai, ai, fermo, no. Fermo, fermo, fermo. Il titolo della canzone è... Rullo di tambo. Grande Sandrona! Ma semplicemente perché a casa non sono in 12, di cui due musicisti, per cui... Dio se ne venga, scampi liberi. E allora, Personal Jesus, loro sono i Depeche Mode, 2301. Ciao ciao, saluto e felicità. Dopo la frase che dicevano qui a microfono spenti, chinotto che possa diventare il chinotto l'acqua dei popoli, solo il chinotto neri ovviamente, due cose sui Depeche Mode. Rappresentano, come dire, il gruppo che ha utilizzato il synth pop e che arriva alla ribalta all'inizio degli anni Ottanta, diventando uno dei gruppi più famosi del mondo. Hanno una carriera trentennale e la rivista britannica Q li ha definiti la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto. hanno venduto complessivamente 100 milioni di album in tutto il mondo. You're wrong, personal, Jesus. Ritornati dopo anni di assenza nel 2005 con Play the Angel, che vi invito ad ascoltare perché è un album fantastico dalla prima fino all'ultima canzone. Adesso andiamo con un'altra canzone. Mi si sono spenti i conduttori. Assolutamente, eccoci qua, 23.06, salute e felicità. Leggevo dalla chat, non lo so, Radio Noise dice come fa sempre il bastion contrario. È il bastion contrario dei bastion contrario, quindi ha una certa da tornare. Ma va bene così. E allora salutiamo la prof che ci saluta, salutiamo Maria che ci sta ascoltando ma non è in chat, e andiamo avanti con quest'ultima mezz'ora qui dall'Iglu di Piazza Vittorio. Io come al solito sto perdendo colpi, sarà probabilità delle stelle. E adesso perché avete scelto questa canzone? Perché avete... ho letto canzone di gruppo che passiamo fra poco e io volevo altre canzone, vabbè. Comunque prima Personal Jesus è stata individuata da Gogol, ma Gogol aveva partecipato alla preparazione della serata musicale, quindi Gogol ti offriremo solo una fetta di torta. Mi spiace Gogol. Ma se indovinerete anche la prossima, la cena sarà tutta vostra. E allora salute e felicità, 23.08, si continua per un'altra mezz'ora. Nel frattempo Frodo ha smontato il microfono e ha saltato la mia playlist. So. No, è uguale. Come vai, vai. Va bene. Arriviamo in Italia. Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi indifferenti, per in voi indigesti. And then Ed eccoci tornati in voce, siamo arrivati in Italia dopo ben 4 puntate, stranamente riusciamo a passare della musica italiana e in chat, anche se bisogna fare il confronto, come dire, per giustizia, perché sia in chat su transizionedifase.org che nella chat di Skype è arrivata la risposta giusta a CCP Miami. Questi erano i CCP che fanno parte, come dire, della New Wave italiana. Il mio conduttore ha per mia gioia saltato il gruppo in realtà precedente che per onor di cronaca va citato, ed erano i Litfiba, quindi non li nominiamo più di tanto perché non ci piacciono. Che dobbiamo fare? Non ci piacciono. Assolutamente concordo. Non li sopportiamo sti Litfiba, se può dire. La nostra trasmissione lo possiamo fare. Ecco, Litfiba no. Grazie. Allora, i CCP, anzi, sono originari di Reggio Emilia e nascono dall'incontro di Zamboni e il futuro cantante leader, che un tempo era una persona con un po' di cervello e ora è diventato un cretino, mi dispiace Fausta, ma è così, Giovanni Lindo Ferretti. Loro si sciolsero nel 1990, hanno fatto come, fanno parte di, possiamo definire il loro genere musicale, punk filo-sovietico, e nel 1992 invece nacquero i CSI, molto meglio secondo me, però... De gustibus, dicevano i latini. Appunto, siamo in Italia e in Italia abbiamo, come dire, delle espressioni un po' così di questa new wave. Vi facciamo ascoltare un brano che è dei Decibel e invito che si chiama... Ops, vabbè, dei Decibel, ci toccano i Decibel, si chiama Disagio. Vi invitiamo... Per chi volesse vincere un altro menù della nostra cena radioattiva. Ho capito, ma scusa, devo fare. Oggi comprare un mixer, un microfono, un cuffie. Sì, ma tanto non lo individuo. È come, è come Tim Buckley, stai tranquilla. Ma stimmi che l'auricolare di Nokia scassate e noi continuiamo Ho a fare le cene. Va bene, insomma, in ogni caso, vi invitiamo a indovinare chi è il cantante di questo gruppo. Il brano si chiama A Disagio. Buon ascolto a tutte e a tutti. Oh. 23:16 e torniamo su qui su Salute e Felicità ancora per una ventina di minuti, anche se pezzi che vedo preparati nella playlist, come dire, superano abbondantemente questi 20 minuti di 15 di 14 che ci rimangono qui, quindi diamo ancora qualche altra notizia, qualche altro appuntamento. Purtroppo torniamo su un po' di fattori di cronaca che sono successi la settimana scorsa e su uno in particolare che è accaduto a Catania ai danni di una transessuale, Michelle Santamaria, che ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita con calci e pugni a Catania una sera di San Valentino dentro una discoteca, poiché appunto il suo viso, diciamo, non era molto in accordo con il suo vestiario. Non è una notizia nuova, non ci stanno dicendo nulla di, come dire, di nuovo che ci lascia basiti perché le violenze si susseguono, ma sottolinea ancora una volta l'indifferenza che c'è stata da parte di chi stava a quel locale, ha visto la scena e oltre a non intervenire non ha neanche soccorso Michelle. Questo è quello che succede a Catania ieri, questo è quello che succede un po' tutti i giorni per le strade, le piazze e nelle case di questo paese. Si chiama transfobia, si chiama non accettazione di qualcosa che è diverso da quella norma di genere che ormai abbiamo installato e fissato dentro le nostre teste, dove esiste solo il maschietto e la femminuccia così ben disegnati. Ebbene, come dire, questo salute e felicità in qualche modo, quando postiamo le nostre frociate, fra virgolette, in parte è anche questo, cercare di diffondere sia da una parte le notizie e quello che accade tutti i giorni nelle nostre città, ma in qualche modo anche di fare informazione. Come dicevamo prima, l'oblio probabilmente è uno dei nostri maggiori nemici e contro di quello vogliamo combattere tramite l'informazione che facciamo attraverso questa radio libera e indipendente e grazie alla quale comunque a chi ci ascolta riusciamo a comunicare qualcosa. E questo è quello che è successo appunto a Catania. E come dire, in qualche modo dobbiamo cercare di fare informazione su questi argomenti e la prossima settimana sicuramente sarà un'ottima occasione per dirci qualcosa in più su quello che riguarda da una parte la salute mentale e dall'altra parte quello che riguarda un po' il mondo LGBT, poiché il Pride, ahimè, arriverà. Ahimè, ho aggiunto ahimè dopo la parola Pride, questo è brutto. Il Pride arriverà. E arriverà tempestoso e furioso come sempre, arriverà con tutte le sue contraddizioni, arriverà dopo un Euro Pride che si è svolto lo scorso anno qui a Roma e che ha sostanziato in una decina di giorni a Piazza Vittorio con stand e quant'altro, un Pride che peggio degli altri anni, cercherà di galleggiare la merda. Chiaramente. 4. Che poi, insomma, come dire, proviamo anche con questa trasmissione a fare una cosa che di solito non si fa, non fanno almeno chi convoca queste riunioni per il Pride, come quella di sabato alle ore 10 alla CGIL a Via Bonarroti a Roma. Di solito non te lo dice, perché è meglio che la gente non ci viene a queste riunioni. Da un certo punto di vista è comprensibile, perché così non vedono lo scempio e la tristezza, ma dall'altro chiaramente è un tagliarci fuori da quelle che sono alcune dinamiche di potere decisionali che girano intorno al Pride. Invece noi vi ricordiamo che l'assemblea, diciamo, romana per il Pride che si farà a Roma quest'anno è sabato, questo sabato qui che viene, alle ore 10 alla CGIL a Via Bonarroti a Roma, vicino Piazza Vittorio. E ve lo diciamo per una serie di motivi. Il primo, che come dire, di principio, che se c'è un'assemblea che parla di un percorso che riguarda tutte e tutti è buono. Magari io famo questo, sapere. Esatto, e questa informazione arrivi alle orecchie e agli occhi di tutti. La seconda è che se crediamo in alcune cose, del tipo che, come dire, tipo il revisionismo storico, non ci piace. Primo. Secondo, che soggetti lesbo, gay, bisex, trans, queer, intersex sono soggetti autodeterminabili e autodeterminanti e autodeterminati delle loro soggettività e identità. E che, come dire, il Pride di sua stessa natura è antifascista, antisessista e antirazzista, allora avete tre motivi in più per venire sabato all'assemblea. Perché per quanto voi possiate non crederci, in realtà chi organizza, non tutti, ma alcune delle persone che si presentano alle riunioni nazionali o locali che siano per organizzare il Pride, in realtà queste cose non le pensano tanto. E allora vediamo grandi dibattimenti, no, grandi dibattimenti, grandi tristezze, perché poi in realtà l'argomento di discussione non è mai che cos'è il Pride o cosa facciamo quest'anno, ma è chi mette i soldi per fare i carri, per fare il Pride, vabbè. Allora vediamo che sullo stesso tavolo sono sedute persone che sono per i diritti e la famiglia e persone che pensano che le lesbiche e la famiglia non ce la devono avere perché sarebbe problematico per lo sviluppo psicologico. Vabbè, insomma, le cose, le comiche. Quindi sabato alle ore 10 alla CGL abbiamo abbonato. Potete venire tranquillamente verso le 11:30. Chiaramente. Non vi svegliate troppo presto. No, però pranzeremo tutti insieme, tutti sì. insieme in un panificio di cui non facciamo pubblicità, ma al quale mangiamo sempre all'assemblea del Pride. E chiedete di salute e felicità, orgogliosamente. Esattamente. E per prepararvi a questo sabato, perché ci dovete venire? Se siete froci, perché sì. Se siete lesbiche, perché sì. Se siete etero, probabilmente siete o froci o lesbiche, quindi da venire. Perché il giorno in cui vi frullerà qualcosa per la testolina, probabilmente già starete lottando per i diritti di voi stessi. E ringraziamo e salutiamo la madre della nostra cara amica Fausta, che ci ricorda che col dito l'orgasmo è garantito. E dai un po', e allora va bene, noi ve la mettiamo queste... Certo, te che mi inneggi a dito orgasmo garantito, mio, mannaggia te. Bella, stai garma. È tendenzialmente queer, certo. Ma io squirto pure, puro. Comunque, dicevamo che saluto mamma e papà, che sicuramente... Ma perché a questa era diventata così? No, comunque sia, sono le 23:23, bucio del culo. Va bene, stiamo degenerando, va bene, non so perché gli sale il chinotto. Però, no, non volevo, cioè nel senso che l'assemblea per il Pride è solo una scusa, ma diciamo, non voglio dire né diciamo né come dire, comunque sia, è un track. Se volete stare con noi, vi ricordiamo che noi saremo all'Eagle Club venerdì sera per l'after organizzato da Two Fat DJs. Poi, senza andare a dormire neanche un minuto, andremo all'assemblea LGBT per il Pride. E poi sabato sera saremo di nuovo all'Eagle Club per il Subwoofer Bear Party, il party animals dei nostri amichetti orsacchiottoni Subwoofer. Buon wow. Poi domenica se staccamo e accanniamo. Come trasmissione domenica a questo punto? Sì, no, fama, trasmissione, non ti preoccupare. Vabbè, ci ho provato. Allora, tutti e tutti, invitate e invitati all'assemblea che ci sarà domenica, sarà sabato, indipendentemente anche un po' dall'orientamento sessuale, perché, come dire, o all'identità di genere, liberare uno spazio per se stessi è liberare uno spazio per chi ti sta vicino. E quindi 23:24, in teoria fra 6 minuti finiamo, ma proprio perché ci sentiamo nella frocherie della frocherie, solo questa sera per voi nella versione più frocherie possibile, andiamo con un pezzo che ci fa ballare. Parleremo anche di questo, della musica dell'LGBT un giorno, perché adesso voi fricchettoni di merda state tutti sotto cassa con quella cosa che fa e tutti che sballate con l'occhio rossi, non capite niente, ma io mi chiedo perché. La musica frocia è bella, perché è divertente, perché... Va bene, buon ascolto a tutti e a tutti, questa per voi è... Donatella Rettore. No, è una cosa seria. Lo dici dopo Donatella Rettore? No, perché almeno adesso quando la sentono possiamo tutti ballare. La musica frocia, come dire, a parte che è un valore ben mantenuto, però come chi stabilisce che è frocia? Allora, questa roba, questa musica qua ha fatto in modo io la attaccato il pippone. No, se non mi interrompete ce la posso fare. Ha fatto in modo di far fare una cosa ai maschietti nelle discoteche e alle femminucce nelle discoteche che tendenzialmente non si vedeva, che ha disegnato in qualche modo il rapporto fra un certo tipo di musica e un certo tipo di ballare, ovvero quello di alzare le braccia. Le braccia non si alzano perché c'è la pezza sotto le ascelle, le braccia non si alzano perché le tette ballano, le braccia non si alzano da parte dei maschietti perché è un gesto molto femminile. La musica froce, quella che andiamo a sentire, ha permesso di fare questo nelle discoteche. Ha permesso di alzare le braccia e sentire attaccati i petti e i propri organi genitali. È questo che ha dato, non quella cazzo di truzza truzza che vi sentite davanti alle casse. E così noi ce la spingiamo ancora e così andremo avanti e anche così sarà... Basta, ciao. Volevamo farvela ascoltare. E questo nel gergo reggae si chiama pull up. Ricomincia, signore e signori. Soltanto mi sento. voglio sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un allettino, ma non si rompe mai. A cantarti la corrente, s'accende e partirà. Siamo giunti alla nostra ricetta che trovate su heartfoodandothergettings.wordpress.com e la ricetta di questa sera è degli antidoti e dei veleni e questa sera vi diamo l'antidoto numero 2, piccoli peperoni ripieni. Prendete dei peperoni piccoli da poter fare ripieni, togliete la calottina superiore e puliteli di semini e filamenti bianchi. Nel frattempo mescolate insieme della carne tritata, manzo va benissimo e come sapete io vi do sempre l'alternativa, secondo me il tofu ci sta anche bene, della feta sbriciolata, un uovo, del prezzemolo tritato, un pomodoro o due a dadini e della harissa. Riempite i peperoni con l'impasto e richiudeteli ciascuno con la propria calottina, picciolo compreso, infornate a forno ben caldo per una mezz'ora, sfornate e mangiate. Che dire, grazie al nostro caro amico che la prossima settimana ci deve, perché ce l'ha promesso, portare una nuova ricetta, come ogni settimana lui ne sforna una nuova nel vero senso della parola, ne sforna una nuova e ce la dirà lui, perché se no gli emenamo, e quindi va bene. Mentre qua si mangiano crackers a profusione per la chimica, io in realtà vi metto il brano che vi avevo annunciato all'inizio della trasmissione, è un brano che davvero mi fa impazzire. Però prima volevo sottolineare un lapis, scusate, ho la frittata di patate con mozzarella col cracker impastata totalmente. Il lapsus che Candy ha avuto in chat, perché ha scritto tofu sì senza cane e formaggi vari, tofu sì senza cane, no carne. Ecco, senza cane. Cane e formaggi vari. Ma secondo me ha le dita sbirule, Candy. Ma questo è un lapis. Io direi che questo è un lapis, quindi Candy, hai vinto. Eccolo qua. Noi salutiamo di cuore Radio Noise. E va bene, bla bla bla, non dico nient'altro, lui lo sa bene. Quindi va bene, salutiamo anche Candy che ci vuole bene e ci segue sempre e gli piglia bene la nostra trasmissione. Ecco qua il brano, e come dice anche il titolo è del 1981, come sta anche nelle tag, diciamo la canzone è del 1981. E che dire, vi tocca alzare il volume, alzarvi in piedi e iniziare a roteare dentro la stanza in cui state, perché questo è il sentimento nuovo che mi viene quando ascolto questa canzone. Quindi niente, vi lascio a questa canzone che merita, è da sola, basta e avanza. Volete dire qualcosa? Dico bene? No, va bene, bevono e mangiano come le scrofe. Ah, Frodo, buon ascolto a tutte e tutti. Buon appetito. Io bevo chinotto comunque. Nuovo che mi tiene alta la vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che Alessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo, è bellissimo perdersi in questo incantesimo. We'll be right back. Abbiamo ascoltato Franco Battiato e poi Alice. Siamo giunti alle 23:45 e non se ne può più. Stiamo sderenati. Basta. Per questo chiudiamo con Absolutely Why You, una signora che non c'entra molto con la New Wave in realtà, ma che arriva sulle scene nel 1980, siamo nel 2012 e ancora le cavalca alla grande quelle scene. Che poi, se lo posso dire, cioè, io sto in laboratorio tutto il giorno per provare l'impianto audio del computer. C'è un solo video che abbiamo sul computer del laboratorio e vi giuro che è un video suo, cioè un live intero del suo concerto fatto 3 anni fa, e vi giuro che la guardi e fai: questa c'ha età di mia madre. E io, che ho 30 anni meno di lei, non riuscirei a fare altrettanto. Capito che se dà una spintarella con l'amichette sue, insomma, ci vuole a fare una roba del genere, eh? Ma quindi stiamo salutando? Sì. Vi lasciamo con un pezzo molto bello di un artista molto bello. Appena partirà l'intro della canzone. Clo ha vinto la cena. Perché? Clo ha vinto la cena perché già ha indovinata. No. Era no. Dice solo no, vi prego, quella no, no, non fatelo. Ma di chi stiamo parlando? Scusa, Radio Noise, scrivicelo in chat. E sì, Clo ha vinto la cena perché ha capito che stiamo... Pure il brano ha capito? No, il brano non l'ha detto, però ha detto l'artista. Vabbè. Va bene, ladies and gentlemen. Sì, l'abbiamo capito il gruppo, Claudia. Dici il titolo della canzone. Ecco. E te vengo a prendere venerdì in macchina e te porto a Strix. E quindi, prima di salutarvi, intanto che sparate con canzoni e artisti, vi ricordiamo che in ordine cronologico vi aspettiamo sabato. No, in ordine cronologico vi aspettiamo venerdì. Pensavo che oggi fosse giovedì, non so per quale motivo. Vi aspettiamo venerdì a Strike, zona Casa Albertone. Cercate Strike SPA su qualsiasi motore di ricerca e troverete via Partini 21. Ecco. Si trova il parcheggio e fa freschino, quindi mettetevi una giacchetta, ma il vino fa nonna. Ma col cappuccio, come vi pare. Esatto. Vi aspettiamo venerdì dalle ore 21 per una cena radioattiva ad autofinanziamento di transizione di fase e quindi anche di salute e felicità. Il menù è molto vistoso e vastoso, quindi venite a magnà, venite a beve, venite a condividere e... portate la vostra pennetta USB e tutto quello che vi pare al suo interno, perché potrete sharearlo con noi, prendere musica e lasciare musica, libri, video, file, tutto quello che vi pare. È una open microphone a Strike da parte di transizionedifase.org. Ci vediamo venerdì, insomma, per chi vuole conoscere poi questi tre soggetti che sono dietro questi microfoni che sentite tutti. Tutte le domeniche sera do una ginocchiata pazzesca, pardonnez-moi. E no, Claudia, non è quella, non dico chi è la cantante. Vabbè, mi sta un piccia troppo. No, comunque non è quella la no, è più stata. Famosa, è più famosa ed è proprio come nostra. Dire, il manifesto nostro. È proprio nostra, come è stata molto nostra questa canzone che ci ha fatto rivivere dei fantastici momenti, che in parte abbiamo passato anche con voi della radio che ci avete ascoltato questa sera. Quindi grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a chi è venuto in chat. Ci vediamo domenica prossima, sempre sulla frequenza di transizionedifase.org. Per domenica prossima ci saranno, appunto, come dicevamo, approfondimenti sulla salute mentale, sulla questione LGBT, dei collegamenti esterni e tanto, tanto, tanto altro ancora. No, Claudia, stai continuando a prendere delle toppe. Tanto Claudia sta scrivendo tutta la canzonografia. La discografia. E salute e felicità vi aspetta dalle ore 21 la prossima domenica. Spammate, spammate, spammate. Lo share si alza, ma dobbiamo diventare mille di mila. E poi prenderemo il potere. Non so dove. Va bene. Buonanotte a tutte e a tutti. Ciao. No, Claudia, stai continuando a tappare. Vai, falla partire. Ciao belle.